Allora, dal 29 al 31 marzo la Soffitta, che è il Dipartimento delle Arti Visive e Performative dell'Università di Bologna, propone il teatro partecipativo di Roger Bernat, che è un progetto a cura di Cristina Valenti e in collaborazione con Carmen Pedullà, che è qui con noi. Buongiorno Carmen. Buongiorno, buongiorno Elisa. Allora, vediamo appunto questo teatro partecipativo che vede un po' la scomparsa degli attori professionisti e va invece a delineare una nuova figura che è quella dello spettatore, che avrà in qualche modo il compito di terminare la nuova trama del teatro. E quindi come nasce questo nuovo tipo di arte performativa? Questa arte performativa nasce innanzitutto da una ridefinizione del ruolo del pubblico, che si trasforma appunto in spettatore, quindi è chiamato a creare attivamente la dinamica spettacolare e performativa. Nasce in una città, appunto quella di Barcellona, la città di Roger Bernat, che nel 2008 decide di cambiare il suo percorso artistico e di dedicarsi appunto ad una tipologia di teatro partecipativo. Nasce dal desiderio di decostruire l'arte teatrale, di decostruirla non solo per le convenzioni teatrali normalmente connesse alla pratica scenica, ma soprattutto per cercare di decostruire le idee precostituite che normalmente si attribuiscono all'arte teatrale. E in questo cerca appunto nella figura dello spettatore quell'energia che lui stesso definisce come orizzontale, che è un'energia capace appunto di trasformare il momento performativo in un momento di responsabilizzazione e di autocritica dello spettatore stesso. E infatti, all'interno delle dinamiche partecipative proposte da Roger Bernat, lo spettatore si deve confrontare con gli altri spettatori che insieme a lui stanno creando il momento performativo. E quindi questo lo porta a porsi delle domande e a mettersi in dubbio come individuo, ma ancor prima che come spettatore e creatore, attore in questo caso. Tra l'altro la responsabilità si sente mano a mano in un crescendo, perché l'aspetto ludico è molto presente e in realtà, appunto come dicevamo, lo spettatore partecipa ma è attore nello stesso tempo e quindi non sa cosa accadrà all'interno della scena. È lui in realtà che si vede davanti a un bivio, giusto? Sì, è questa la dinamica che si presenta allo spettatore, perché deve compiere una scelta, partecipare o non aderire a quello che è lo schema drammaturgico e spettacolare che gli viene proposto. Lo spettatore bernardiano vive l'illusione di essere colui che sta scegliendo e portando a termine la sua azione, ma in realtà si rende conto di essere manipolato totalmente da uno schema drammaturgico che è già stato preventivato da tutto il disegno dello spettacolo. Ed è proprio qui che si gioca l'asse centrale della poetica partecipativa di Bernat, perché se da un lato lo spettatore si crede colui che fa, si riconosce in colui che in realtà fa perché in qualche modo è veicolato a fare. E un punto interessante che sottolinea, che evidenzia lo stesso regista, è il fatto che lo spettatore deve sentirsi manipolato, ma allo stesso tempo deve sentirsi colui che manipola. Quindi questa manipolazione diventa un po' un cortocircuito che deve portare lo spettatore a riemergere e a rendersi consapevole di quello che sta vivendo. Sì, tra l'altro poi è interessante perché nella vita di tutti i giorni ognuno di noi si trova davanti a un limbo in cui ha delle scelte che deve compiere, a volte prese dalla propria personalità, altre da ciò che la società ci impone, perché ci dà un'etichetta. Dove finisce all'interno di questo spettacolo il limite, il confine sottile tra la manipolazione e invece la scelta individuale? No, c'è del margine, nel senso che c'è uno schema, ma poi è l'individuo a scegliere. In questo lo vuole ricondurre un po' alle logiche partecipative connesse a tutto diciamo il tessuto sociale in cui vive. Quindi ogni spettacolo è differente. È partito a Barcellona nel 2008, però sicuramente avendo Bernat una visione sociale e politica, tende comunque a coinvolgere questi spettatori in base al luogo in cui sono, quindi le domande saranno mirate. Certo, lo spettacolo cambia da paese a paese, da città a città, perché chiaramente ogni città conosce un tessuto sociale, un contesto sociopolitico molto diverso e quindi Roger Bernat e la sua compagnia cercano appunto di adattare lo spettacolo proprio alla città in cui vanno poi a presentarlo. Le domande infatti cercano di ridare anche un volto alla città stessa in un certo senso tramite i suoi partecipanti e i cittadini che la abitano. E quindi questa sera, se qualcuno è interessato, ha la possibilità di partecipare davvero? Certo, assolutamente, assolutamente sì. Lo spettacolo sarà alle 18 ai Laboratori delle Arti, in piazzetta per Paolo Pasolini. E chi vorrà magari presentarsi e provare a partecipare un po' all'ultimo potrà farlo presentandosi un'ora prima dall'inizio dello spettacolo, perché verranno messi in vendita i biglietti rimanenti. Sarà importante però portare con sé un documento di identità, perché dovrà essere lasciato per il ritiro delle cuffiette, perché Domini Public è uno dei tanti spettacoli che rientra nella cerchia degli spettacoli on device, quindi ci sarà appunto questo elemento importante. Questo supporto. Sì. Bellissimo.